24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Look. I social network fanno ormai parte della quotidianità, luoghi di incontro virtuale che possono anche nascondere pericoli. Uno dei rischi principali è il cyberbullismo. Cyberbullismo è letteralmente la trasposizione digitale del fenomeno del bullismo. Crescenti perdute dentro l'impotenza di diventare davvero grandi. Genitori ombra, solitudine. È difficile sfogare la rabbia, o piangi o picchi. Carolina ha solo 14 anni quando diventa vittima dei cyberbulli. La bersagliano ogni giorno sulla sua bacheca e su tutti i social network e lei, troppo giovane e troppo fragile, non riesce a difendersi. Carolina Picchio aveva 14 anni quando nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2013 si è lasciata cadere dal terzo piano di casa sua a Novara. Carolina è una vittima del cyberbullismo. Il padre di Carolina, Paolo, ci racconta la sua storia. Dottor Picchio, buongiorno e grazie. Che cosa è successo in quella notte di gennaio? La notte che verso alla sera Carolina mi ha chiesto se potevo uscire perché era un venerdì sera, il giorno dopo non c'era scuola e io le ho detto sì, però alle 11 mi raccomando ti vengo a prendere. E in effetti così è stato, lei anzi mi ha chiamato alle 11:05 e io sono andato a prenderla al centro a Novara, ma normalissima. Normale. E poi tornando cosa è successo? A casa non mi ricordo esattamente le parole, ma alla fine ha detto: papà, sono molto stanco, ho sonno, vado a dormire. E lei è salita in camera sua, oltretutto abitavamo al terzo piano, quindi ha fatto le scale a piedi, di corsa, niente lasciava immaginare la tragedia. Io poi sono stato lì un po', visto che la sua luce va spenta, e verso le 11:30, adesso non mi ricordo esattamente, sono andato anch'io a dormire. Purtroppo sono stato svegliato dai carabinieri che mi chiedevano: ma lei è il papà di Carolina? Sì, ho detto, ma sua figlia dov'è? E ho detto, ma è in camera. Infatti sono andato in camera, ho aperto la porta e ho visto questa finestra spalancata. A quel punto ho capito la cosa. Ma quando ha capito il perché? Non subito, perché si pensava anche a eventualmente un incidente, qualcosa, una voglia di non so, scappare, ma lei non era una persona che fatta voleva così, nascondere. Certo. Il fatto è che aveva lasciato questa lettera di addio in cui appunto raccontava il motivo di questo suo gesto, per cui era una specie di premeditazione. Ma in questo biglietto cosa diceva? In particolare diceva che le parole fanno molto più male delle botte, per cui questi ragazzi o chi l'aveva insultata non sanno quello che può far soffrire, ecco, una persona che come era Carolina, oltretutto ma perché loro avevano filmato la violenza che le avevano fatto e l'avevano diffusa. Questo l'ho capito poi dopo, cioè certamente verso la fine di novembre c'era stata una festa, un ritrovo a casa di amici. Poi mi hanno chiamato un'amica che partecipava a questa riunione con ragazzi, tutti di 14-15 anni. E infatti mi aveva detto: andiamo, mangiamo una pizza tutti assieme, ok. Mi hanno chiamato dicendo che Carolina stava male. Io ho pensato subito: ma come mai? Certo. Sono andato in casa e ho visto che Carolina era praticamente in uno stato di semi incoscienza. E mi hanno giustificato il fatto che si era scolata un'intera bottiglia di vodka, ma qualcosa mi ha lasciato un po' perplesso, certo. E solo lei in quello stato comatoso, naturalmente sgridato lei, sgridati i ragazzi, ma immaginavo quello che c'era dietro, invece a me è sembrato capitato? Molto strano che fosse solo lei quello stato naturale. Il giorno dopo, oltretutto l'ho portata a casa, camminava, ma era barcollava, come se fosse ubriaca. E invece cos'era capitato? Niente, lei ha detto: papà, non mi ricordo assolutamente niente. Ho detto: ma guarda che io ti ho tirato su, ti ho dato due schiaffoni, cosa è successo? Assolutamente, papà, altrimenti si poteva prendere immediatamente dei provvedimenti. Certo, naturale. E questa cosa è rimasta un po', ma a nessuno, neanche alle sue amiche, a nessuno è stato informato di questo. Ma invece cos'era capitato? Avevano filmato il male che le avevano fatto? Sì, avevano fatto, ripreso evidentemente, le avevano una violenza, fatto assumere insomma, qualche cosa. Certo. Ma no, non c'è stata violenza. No, però, ma una violenza, diciamo, di comportamento. Sì, sembra che un ragazzo era venuto con una bottiglietta che la... insomma, lei stava malissimo, quindi doveva andare in bagno e questi chiamare i ragazzi è un eufemismo, ecco. La riprendevano e facevano gesti osceni, certo, naturalmente. Raccontare violenza sessuale non c'è stata, per fortuna, però prendere la persona in quello stato lì, certo. E poi metterla appunto. Quanti anni avevano questi ragazzi? Avevano la stessa 14, età. 15, uno addirittura 13. Ma lei ha capito perché? Hanno qualche spiegazione sulle motivazioni, oppure erano tutti ubriachi? Le motivazioni potrebbero essere tante. Caroline è una ragazza molto solare, no? Lei era amica di tutti, voleva credeva soprattutto nell'amicizia, lei voleva fare la confidente di tutti. E siccome c'era stato una specie di questo filarino che una a 14 anni con il ragazzo, sembra che la volontà era quella di deriderla ulteriormente, come ricatto agli occhi del ragazzo. Ma dove hanno anche postato perché... questo materiale, questo filmato, dove l'hanno postato questi ragazzi? Mi sembra su WhatsApp, però io guardi non l'ho mai visto perché ma lo credo, ecco. Quindi lei non aveva avuto nessun sentore dello stato di quello che stava succedendo, ma lei di quello che stava perché era successo molto prima, insomma, un bel tempo prima. Ma sa, lei ha covato questo dolore in modo drammatico. Poi mi sia venuta a conoscenza anche successivamente. Comunque, ma sa, una ha una pudicizia anche, perché neanche la sua migliore amica è stata informata della cosa, non lo sapeva. Lei l'ha scoperto, l'ha scoperto così, quasi per caso forse? Direi che è la procura che poi ha indagato su questo. Ecco, adesso le indagini sono state chiuse, per i ragazzi le accuse vanno dalla violenza sessuale alla detenzione e diffusione di materiali pedopornografici in rete, per uno di loro c'è anche l'accusa di istigazione alla morte. Lei cosa si aspetta adesso dalla giustizia? Ma guardi, io non voglio esprimermi su questo, devo solo ringraziare la Procura dei Minori di Torino, che è stata veramente encomiabile il lavoro svolto, le indagini fatte molto approfonditamente, quindi anche che si sono concluse con un rinvio a giudizio. Io spero appunto che la giustizia faccia il suo corso e questo di Carolina sia un esempio da dare a tutti quelli che oggi imperversano con questo cyberbullismo in rete che è devastante. Di una violenza assoluta, e lei nel suo messaggio lasciato ha raccontato il dolore infinito di questa situazione? Sì, insomma, il problema è questo, noi cerchiamo che almeno attraverso questo gesto allucinante, perché Ripeto, direi mille volte, ecco, non essere qua, almeno seguire quello che è stato il suo messaggio. Tanti ragazzi capiscono il dolore che non, cioè un mi piace alla fine cosa può provocare. Una storia veramente, veramente drammatica. 800 24 0024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Luca Bernardo, il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento Infantile del Fate Bene Fratelli, ha creato il primo ambulatorio in Italia per le vittime del bullismo, autore anche del saggio Il bullismo femminile. Ecco, professor Bernardo, secondo le statistiche, una volta su tre le offese e le botte partirebbero da bambine o da ragazze, una novità. È il volto nuovo del bullismo? Sì, chiamiamolo il lato anche oscuro, nel senso che il bullismo si pensa sempre al maschile, si è visto in questi anni e delle nostre ricerche che il bullo è anche donna. Ecco, ma come nasce il bullo donna? Il bullo donna nasce staccandosi dall'area del bullismo maschile, cercando pari dignità, ovviamente negativo. Un bullo su sei è donna, ovviamente dal punto di vista della distinzione sia criminologica che delle caratteristiche sono completamente diverse. Parliamo di questa diversità, professor Bernardo. Nel suo libro Il bullismo femminile, lei sostiene che la violenza femminile può essere spietata anche senza fare uso della violenza fisica. È lì la differenza soprattutto, no? Allora, la prima differenza è che diciamo che il bullo maschile normalmente è sicuramente non ha empatia con la vittima, ha caratteristiche caratteriali molto forti, ha una distinzione criminologica perché i bulli sono diversi e non è mai un ragazzo intelligente o particolarmente sveglio che va bene a scuola, a differenza della ragazza. La ragazza invece com'è? La sua skill, diciamo, il ritratto? La bulla invece è un po' come l'ape regina, è carina e divertente, va anche bene a scuola, non avrebbe bisogno di fare quello che fa, ma in realtà prende e coagula tante ragazze intorno che diventano un po' le sue gregarie. Sì. E a quel punto decide l'attacco psicologico o fisico. Ecco, ma la diversità del soggetto è questo che scatena la violenza comunque? Cioè, qual è la molla? La molla che scatena è la diversità, nel senso che la ragazza, la capobanda, la bulla, leader, sceglie in maniera oculata e attenta chi sarà la vittima e si stancherà di quella vittima solo o quando ne trova un'altra o gli ha fatto quel danno che immaginava di fargli. Ecco, ma secondo un'indagine di Save the Children sembra che tra i criteri di scelta della vittima l'aspetto estetico sia al primo posto, 68%, poi la timidezza, il supposto orientamento sessuale, l'essere straniero, la bellezza femminile quando spicca nel gruppo, persino la disabilità. Quindi non c'è salvezza per nessuno in sostanza. Purtroppo alla fine no, nel senso che una ragazza che è timida, è diversamente abile, quello che è il bullismo omofobico, comunque la diversità in generale fa sì che scatena queste bulle contro le vittime. Ecco, ma allora per essere al sicuro in qualche modo bisogna essere omologati, cioè però omologati a cosa? Allora, più che mimetizzarsi bisogna avere il coraggio ovviamente di riuscire a rispondere, ma soprattutto di avere la possibilità di avere quella che è la cintura di sicurezza che sono i pari, cioè i ragazzi, i propri compagni di scuola, i propri amici di merenda, di palestra. Non bisogna essere soli, ecco, più o meno. Ecco, diciamo che la solitudine è sicuramente un fattore scatenante e marginalizzante di tutte quelle che sono le potenziali vittime. Quando si trova solo è il momento in cui loro attaccano. Professor Bernardo, lei sostiene nel suo libro che i bulli aggrediscono le vittime finché non le cambiano. Ma le cambiano cosa vuol dire? Le cambiano vuol dire che si sono stancate o stufate di aggredire quella stessa vittima, oppure ne hanno trovato una molto più interessante. Senta, professor Bernardo, ma smartphone, WhatsApp, eccetera, la possibilità, cioè in generale, di pubblicizzare la violenza ha inciso molto sulla crescita del bullismo? Direi che è stata proprio l'evoluzione negativa, passando dal bullismo al cyberbullismo. Noi sappiamo che siamo di fronte ai digital native, quindi intorno abbiamo tutta una tecnologia, una possibilità tecnologica. Sappiamo dai dati della scientifica americana e quindi dalla letteratura dei colleghi che si entra 150 volte in uno smartphone tra i 15 e i 17 anni. Quindi è un moltiplicatore della vigliaccheria che è insita nel bullismo. Esatto, lei ha usato un termine perfetto. Ricordiamo che il bullo è quasi sempre un vigliacco, quantomeno quando è solo, diventa forte quando è il gruppo. Certo. Senta, ma com'è possibile che gli insegnanti non abbiano strategie nei confronti del bullismo che dilaga sempre di più nella scuola? Allora, diciamo che il problema vero è la formazione. Purtroppo né in famiglia né tra i genitori, quindi tra i genitori, ma soprattutto tra gli insegnanti, si riescono spesso a percepire quelli che sono i segnali d'allarme, ove ci sia un bullo in classe, ove ci sia una preparazione d'attacco e soprattutto quali sono le vittime. Ma dove ci sono i bulli, dove ci sono i bulli, i professori come reagiscono? Dove ci sono i bulli, generalmente a volte tendono a sminuire il problema proprio per cercare di trovare un modalità di tranquillità all'interno della classe. In realtà il bullo va individuato, va punito. Oggi sappiamo, ecco, il 13 di aprile c'è stato proprio la riunione al Palazzo del Senato, la Sala Zuccari, col Presidente Grasso e col Ministro Giannini, ove sono state firmate le nuove linee guida, quindi le indicazioni che il Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università dà alle scuole come indicazione di contrasto. È quella più importante come indicazione di contrasto nelle scuole qual è? Innanzitutto la prevenzione, quindi la formazione degli insegnanti, ma anche degli ATA, che sono quelli che io chiamavo i vecchi bidelli, sì. E soprattutto, oltre alla formazione, è molto importante una nuova introduzione che è il concetto di affettività. Senta, ma per insegnare a difendersi, lei ha detto bisogna essere forti nella reazione, ecco, allora andare in palestra è utile? Allora, diciamo che il forti vuole servire innanzitutto non isolarsi, ma soprattutto anche impararsi, se c'è necessità, a difendersi. Faccia conto che nel nostro centro è stato attivato una palestra che si chiama di autostima, ma anche autodifesa. Quindi a un certo punto, se la voce non basta, la postura non basta e si viene aggredita, bisogna anche saper rispondere, ecco, e difendersi. Senta, ma quali sono i segnali per un genitore che il proprio figlio sta subendo episodi di bullismo? Beh, innanzitutto, la mattina per andare a scuola impronta tutte quelle difficoltà di ho mal di pancia, ho cefalea, non voglio andare a scuola, non mi sento, quindi chiusura. Come può intervenire un genitore? Esatto, un genitore ovviamente che non è in grado di dare una definizione se certo. Di bullismo, c'è un altro problema all'interno della famiglia, quando vede un cambiamento nel proprio figlio, nella propria figlia in negativo, quindi cambia anche, non so, il tenore scolastico, sì. Il rapporto con gli insegnanti, il rapporto con i propri compagni, vuol dire c'è qualcosa che non va, quindi subito parlare e interfacciarsi con la scuola. Senta, un'ultimissima cosa, ma uno che è bullo a 15 anni è bullo tutta la vita? Purtroppo c'è un dato che mi spiace sempre ricordare, che è della Procura di Milano del 2008, che dice che il 47,7% dei ex bulli a 24 anni hanno già subito 3 condanne penali. Cosa vuol dire? Che dopo il 17esimo anno circa di vita, se i bulli non seguono un percorso di miglioramento, di cambiamento di quello che è il precedente, sicuramente diventano delinquenti. Delinquenti. Tantissimi messaggi su questo tema, però troppo spesso i messaggi non sono firmati, e quando non sono firmati, soprattutto se si riferiscono anche a programmi di questa radio, ovviamente noi non li leggiamo, però uno su tutti, invece lo voglio leggere, una persona che si firma dicendo sono una persona che non è riuscito a suicidarsi tanti anni fa. Perché succede a scuola, i professori non vedono, succede sui social, nessuno legge. Insomma, è tutto vero, ma c'è una grandissima distrazione. Ecco, Mario, è così, eh? Questa è una situazione drammatica. Sì, perché si scambia la libertà con la libertà di fare tutto. La realtà è che la libertà si ferma quando nuoce un altro. Quella è la libertà di convivere bene libertà insieme. Libertà e responsabilità, esatto. Devono convivere. Ecco, scusa, i social hanno accelerato questa degenerazione. Questo, assolutamente. In maniera incredibile. Bisognerà pur fare qualcosa presto. Elena Ferrara, appunto, senatrice, prima firmataria del disegno di legge sul cyberbullismo. Ecco, senatrice Ferrara, lei è stata una delle insegnanti di Carolina Picchio, la ragazza di cui abbiamo raccontato la storia attraverso le parole del padre prima. Avrebbe mai immaginato una fine così drammatica? No, non l'avrei mai immaginata, perché appunto conoscendola così avevo intercettato una personalità assolutamente lontana da una ipotesi di quel genere. Capisco come abbiamo tutti cercato di capire come sia successo. Ma il disegno di legge contro il bullismo è anche frutto di una sua elaborazione di questa tragedia? Sì. Cioè la solitudine di Carolina, la sua disperazione nel contempo, la sua dignità nell'affrontare da sola quel problema mi ha proprio costretta a indagare sul fenomeno insieme alla Commissione dei diritti umani. Ecco, ma nella sua esperienza di insegnante ha avuto a che fare spesso con casi di bullismo? Ma guardi, il bullismo è sempre un po' latente, no? Perché fa parte un pochino anche, soprattutto per i preadolescenti, di un momento così di ricerca di identità personale. Quindi certo. Ma più maschile o più femminile nella sua esperienza? Ma nella mia esperienza è ancora più maschile, ma sta crescendo quello di genere femminile. Ma per un insegnante è difficile individuarlo, cioè, oppure è più facile ignorarlo? Era più semplice, diciamo, il vecchio bullismo che si traduceva poi nei dispetti, anche nei pestaggi. Oggi noi siamo di fronte a delle classi dove succedono delle cose, ma gli insegnanti non sono sicuramente nelle condizioni di poterle facilmente intercettare. Ma perché non sono preparati o perché è meglio ignorare? Ma un po' perché, come d'altra parte i genitori, io non posso sapere che è stato fatto un gruppo su WhatsApp escludendo due ragazze all'interno di un gruppo classe, perché io non sono in quella comunità e quindi devo avere le antenne alzate e devo cercare di intercettare la richiesta di bisogno. E quindi c'è anche una necessità di formazione tecnologica praticamente, perché bisogna anche saper seguire gli strumenti che i ragazzi usano. Ma sì, è necessario comunque conoscere quel mondo, sapere che comunque ci sono degli aspetti che sono tipici di quella tecnologia, però soprattutto continuare a portare avanti i nostri obiettivi educativi in modo costante, pensando che i ragazzi devono poter avere fiducia degli adulti. Senatrice Ferrara, che cosa aggiunge la sua proposta alla normativa vigente? Beh, aggiunge una procedura di ammonimento tipo lo stalking 112 bis anche per i minori che si macchiano di reato nei confronti di altri minori e quindi vengono ammoniti e non cadono, se non è stata esposta querela, necessariamente nel penale, perché questo poi è quello che può succedere. Ed è prevista una formazione specifica per gli insegnanti? Assolutamente, per personale, sì, un piano d'azione nazionale al quale in questo momento, cioè da lunedì c'è stato annunciato che ci saranno anche 2 milioni di euro per fare una formazione puntuale in tutte le scuole, avere un referente in ogni autonomia scolastica. Poi abbiamo dei dispositivi per permettere ai minori ultra 14 anni di rivolgersi ai titolari di trattamento e dire: quel contenuto mi offende, lo trovo lesivo della mia dignità e voglio che sia rimosso. Ecco, abbiamo Cristina da Massa al telefono. Buongiorno signora, lei ha un'esperienza da raccontarci? Sì. Volevo raccontarvi il fatto che io, proprio come privata, semplicemente come mamma, sentendo appunto questi problemi così attuali, sì, ho contattato la polizia postale che già qua nella nostra zona sta andando nelle scuole a fare tenendo queste conferenze, e l'ho chiamati personalmente a partecipare presso le scuole elementari, quindi coinvolgendo non soltanto i ragazzi ma anche i genitori per quanto riguarda le scuole elementari, in modo che ci potesse poi essere un dialogo, ecco, con i bambini, perché magari certi temi o certe cose magari fuggono ai genitori. I genitori, signora, secondo lei chiudono gli occhi volentieri oppure non capiscono? Beh, purtroppo la polizia postale diceva che molte volte i genitori sono molto distratti. Questo è emerso. Questo infatti è un tema di Po' da babysitter. I social sono una volta nella nostra generazione ci mettevano davanti alla televisione, adesso li lasciano davanti ai social, che forse sono molto peggio. Più pericoloso. Perché la TV parlava e basta. Qui si risponde. Qua diventa il ring. Mix 24. Posso farci se mi fai sognare, dove devo mettermi per non precipitare, che posso dirti se non ho più parole, tutto è così stupido che è inutile parlare, ho paura a guardarti. Angelo, anche da lontano ci porti poesia. Buongiorno. Buongiorno, è perché la notte è stata lunga, c'era da smaltire l'adrenalina di uno spettacolo ricco di inchini al pubblico, battimani a scena aperta che hanno fatto fermare gli attori per anticipare il saluto al sovrano più capriccioso, che è lo spettatore distratto, catturato però nello stupore dei colori, dei movimenti, dei lazzi, dopodiché la musica, e nessuno sa come fare, non sa cosa poterci fare se la scena poi fa sognare. Il sogno è durato per tutto il dopo teatro, teatro, per tutta la cena, per tutta la passeggiata e per la partenza del carro, il carro di Tespi, quello del teatro, quello degli attori, lento come un mondo fatto di idee che abitano il cuore e aprono le finestre dei battimani. Mamma mia, ma che spettacolo era? E non lo posso dire, conflitto di interesse. Ma dillo, dillo! Lontanissima Sicilia! Ah, che meraviglia! L'abbiamo visto, è bellissimo, bellissimo. In quel di Palermo di nuovo? No, no, a Perugia. Ah, Perugia, che meraviglia. Bene, sì, bene. Bravo. Mario, Mario, le tue bolle. Io. Siamo in America, va? È il giorno di Renzi e Obama. Certo. E dunque, prima nota della Casa Bianca. È arrivata stamattina. L'Italia è un prezioso alleato in ambito NATO e partner su un'ampia gamma di sfide globali. C'è già un messaggino. L'agenda è presto fatta, anzi la timeline, chiamiamola così. Bilaterale nello studio ovale con Obama e Joe Biden, conferenza stampa nella East Room, pranzo di lavoro nella Cabinet Room. Sono i luoghi della Casa Bianca, questi, certo, per intenderci. E i temi in agenda, anche questi, sono presto che fate, perché Ucraina, ISIS, Medio Oriente, Libia e naturalmente Mediterraneo, con una puntata sull'accordo di libero scambio transatlantico che vale migliaia di miliardi. È la difesa, come si può ben intuire, al centro dei colloqui. Vediamo che cosa succede, perché l'Italia è un partner importante, vorrebbe, potrebbe assumere un ruolo guida nel Mediterraneo nei prossimi anni. Servono risorse, soldi, riforme e progetto. E progetti, vediamo come andrà. Va bene, Salamino. C'è un mestiere nuovo di pacca, altro che crisi, nuove professioni, antiche professionalità. Manco il tempo di salutare l'apparizione di Silvia Sardone, giovane, bionda, sveglia e insomma la rottamatrice per conto di Silvio Berlusconi, sì, brava, che però, caro Mario, già si profila l'avvento di un nuovo leader di Forza Italia e del berlusconismo, sì, perché c'è un mestiere inedito, ci si incontra in società, si fa conversazione, si chiede lei di cosa si occupa, qual è il suo mestiere, ormai sono in tanti a poter rispondere, sono il delfino di Berlusconi, oppure piacere, futuro leader di Forza Italia, sì, è un mestiere. E il problema del delfino ha una sigla, non è che ci sarebbe una musica adatta? C'è. Ecco! Abbiamo capito, è un canzoniere, capito? Questo è un canzoniere. Allora la sigla è PDD, ovvero Palermo Domodossola Domodossola, esatto. Paolo del Debbio, filosofo e filosofo vero, e non è come, con rispetto parlando, come la signora Carrai, Francesca Campana, questo è un filosofo che ne capisce, popolare, bravissimo conduttore di Quinta Colonna, è indicato dall'informatissimo Luigi Bisignani come futuro leader, ma lui, PDD, cioè Palermo Domodossola Domodossola, nega, e ha anche un argomento giusto, perché dice: per diventare segretario dovrei saltare nel cerchio magico di fuoco, il che è pericoloso. E poi fa un ragionamento, caro Giovanni e caro Mario, chi affida a voi, che secondo me merita uno sforzo ermeneutico, perché lui dice: il datore di lavoro è il sostituto d'imposta e così Berlusconi è il sostituto di consenso. Insomma, io non credo che ci sia spazio per fare questa fatica ermeneutica, anche perché poi lui dice: gli eletti di Forza Italia erano rappresentanti del popolo, che a loro volta però rappresentavano il capo popolo. Insomma facciamo Berlusconi, come dice lui. Come dice lui. Musica! Musica! Thank you. Ecco Mario, prima della bolla io volevo legarmi un attimo ancora a quello che avevi detto prima, sì, perché hai detto che il dossier della difesa è il dossier importante, sì. Io oggi ho letto un'accurata anticipazione del dossier della difesa, cioè del piano Pinotti che tu hai scritto sul foglio. Puoi dire in due parole di che cosa si tratta, sì, prima della prossima bolla? È diciamo un'esclusiva nostra lì del foglio che ho pubblicato io, sostanzialmente riassunta veramente in termini sintetici è l'Italia pronta a diventare leader nel Mediterraneo con un nuovo modello di esercito. È una riforma molto importante, rivoluzionaria, che verrà presentata a Mattarella il 21 aprile. Va bene, inviteremo nel Consiglio Supremo di Difesa. Inviteremo la Pinotti a questo punto. Sì, certo, inviteremo la Pinotti a parlarne. Intanto il canzoniere. Una cosa è aver compassione degli afflitti, e come che a ciascuna persona stia bene, a coloro è massimamente richiesto, li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hanno il trovato in alcuni, tra quali, se alcuno mai ne ebbe bisogno, gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Mix 24. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia. Allora, Ligabue, Liga, insomma, no? Va sempre bene. Beh, no, è forte. Poi io sono in fissa con questa canzone in questi giorni, mi piace un sacco. Ogni tanto tu sei in fissa, Giovanni. Mi capita, mi capita. Va bene, come va la guerra contro ISIS? È molto interessante seguire questo conflitto che sulle pagine dei giornali non emerge in maniera molto chiara, se non quando staccano la testa a qualcuno. Forse dobbiamo imparare anche a raccontare in maniera diversa le cose. Comunque, americani e iraniani stanno picchiando veramente duro in Iraq e in Siria, sono numeri impressionanti, è in corso veramente una terza guerra irachena e a questo punto allargata ovviamente alla Siria di Assad, che tra l'altro è anche in difficoltà perché ha perso terreno varie volte e ha bisogno sostanzialmente del sostegno degli americani per stare in piedi, che non so fino a quando lo sosterranno. Però due o tre numeretti così, sì. Via: 75 carri armati distrutti, 200 anvis, 441 accampamenti, 1689 edifici distrutti, 1166 postazioni di cecchini e di miliziani distrutte, 151 infrastrutture petrolifere che erano finite nelle mani o erano strategiche per ISIS andate via, totale target 1977, totali obiettivi coinvolti 5.784. Sono i numeri del CENTCOM, numeri. Ovviamente non sono miei, ma e li ho dati così, li ho snocciolati, certo, così per far ognuno capire, una, esatto, per, sì, far capire quanto sia intensa questa storia in realtà. È una guerra vera, ecco. Ancora una bolla, Mario. Vai. So show me family. No, che sono i Lumineers. Oh, hey. Allora, molto bello questo pezzo. E solo per dire una cosa, Giovanni, io te la butto così, sai che ti provoco su questo. Vai. Allora, Google, che vabbè, stanno preparando il multone, sì, vabbè, contro sei... Google, eccetera. No, io dico solo alcuni argomenti, dai, che Google porterà davanti ai burocrati, sì, europei. Speriamo che paghino le multe. Android è un open source, ha abbassato i prezzi e moltiplicato le scelte per i consumatori. Sai quanti modelli? Quanti? 18.000. Vabbè, intanto ci torniamo su questo. E oggi, 7 miliardi dati agli editori. Oggi, come ogni venerdì, è arrivato il momento della proposta, della nostra posta del cuore. E sentiamo un pochino la storia di oggi. Maria. Sara, tocca a te. Grazie, mi stavo confondendo. Oggi non c'è da confondersi, impossibile. Oggi ci ha scritto Giulia e dice così: stiamo insieme da 3 anni, conviviamo, eppure con tutti i nostri alti e bassi stiamo bene. Prima però eravamo pieni di attenzioni, sorprese, messaggi, regali. Poi chissà come abbiamo smesso. Forse nel terrore di scadere nella routine abbiamo dimenticato di costruire le nostre buone abitudini. Più o meno 3 settimane fa eravamo in centro e così per fare una prova mi sono fermata a osservare un bracciale da pochi euro in una vetrina. «Ti piace?» ha fatto lui. «Moltissimo», ho risposto io, e abbiamo ripreso a camminare. E niente, il bracciale non è mai arrivato. Ci sono rimasta male. E poi mi sono chiesta quante volte devo aver fatto la stessa cosa. Quante volte mi sono svegliata pensando io, invece che noi. Perché voglio ancora essere sorpresa, corteggiata, amata, ma anch'io ho dimenticato come si fa. Allora mi chiedo, come si costruisce il noi? L'attenzione, il pensiero per l'altro, una volta che l'entusiasmo iniziale è svanito. Come si evita di scivolare inconsapevoli nella stanchezza senza emozioni? Pietrangelo, sei un abitudinario? Eccomi, io senza musica non so cominciare. Allora, c'è un proverbio che così recita: è lo stesso morto che insegna a piangere. E quindi il noi non può costruirsi che mettendo insieme io e io, due io diversi, ovviamente. È nel due che diventa noi perfino l'abitudine, perfino quella distrazione, perfino quella dimenticanza, quello di sapersi e sentirsi smarriti davanti a una vetrina e non rincorrere quel bracciale può diventare una saldatura nel noi, perché l'amore non è mai benda, non è mai un cerotto, ma è sutura, e quindi due pezzi che vengono cuciti anche da quegli aghi insopportabili che sono gli aghi dell'indifferenza. Sara, io non ho risposte a tutte le domande come Pietrangelo. No, cara Giulia, come te, tante di noi cercano questa risposta tutti i giorni. La buona notizia è che sei consapevole delle difficoltà. La cattiva notizia è che c'è il rischio che buoni propositi e tentativi di cambiamento restino solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me. Insomma, in tema di bella, fantasia, bella. Di risposte, molto bella, bella di fantasia, di risposte e di fantasia tout court. Qual è la storia, Marina, che raccontiamo oggi dopo il giornale radio? È la storia di Emilio Salgari, è uno dei più importanti scrittori italiani di romanzi d'avventura. È l'autore del celebre Eroe Sandokan. Anche lui ha vissuto in qualche modo una vita avventurosa e, pur non avendo mai viaggiato, ha scritto più di 80 romanzi e 150 racconti d'avventura. Bene, allora la storia di Emilio Salgari. Dopo, intanto, c'è la vittoria del canzoniere. C'è qualcuno? No? Ma qui hanno scritto in molti. Vincenzo, c'è? Pronto? Pronto, Emanuele? Emanuele, sì. Allora? Buongiorno. Allora? Sì, il Decameron di Boccaccio. Ah, è perfetto. Allora, ha vinto il nostro libro. Bene, benissimo. Pubblicità.